Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Speciale Paese Reale. Buonasera. Inizia oggi una serie speciale di questo programma per raccontare cosa fanno le imprese familiari e gli imprenditori italiani in questo periodo di difficoltà e soprattutto con quale spirito si muovono, continuano ad investire, vanno all'estero, innovano e creano ricchezza, rappresentando uno degli elementi di solidità, forse il principale, del paese. Tra gli ospiti della puntata partiamo da Cesare Verona, presidente ed amministratore delegato di Aurora Penne, quarta generazione alla guida dell'azienda, sede a Torino e presenza in Europa, Americhe e Estremo Oriente. Dottor Verona, c'è veramente questa solidità del paese e soprattutto come la vedete voi che siete dentro alle aziende in questo momento in cui si parla di crisi e di problemi economici, ma anche molto di problemi finanziari, di problemi di immagine? Come vivete voi la vostra realtà quotidiana e il vostro lavoro quotidiano? Ma io direi che prima bisognerebbe sicuramente dare un messaggio di fiducia e di tranquillità, perché il nostro paese ha superato momenti duri e durissimi dalla ricostruzione in avanti e la ricchezza che noi abbiamo accumulato è una ricchezza fatta di persone che hanno sempre mediamente fatto il passo più o meno lungo come quello che permetteva la gamba, mai corso verso la politica e la finanza di plastica, non ci siamo mai indebitati in linea di massima oltre quello che era ragionevole, e per cui il paese ha una ricchezza, ha una solidità di fondo che sicuramente poi, che sia più o meno visibile, che sia più o meno, diciamo, ahimè, trasferibile in tasse, questo è ancora un altro tema, ma il paese è più solido di quanto non si voglia raccontare, ed è un paese che sta forse anche un po' meglio di altri paesi che sono stati, diciamo, messi sulla gogna mediatica e sugli spread e messi sotto frusta. Ma in questo quadro attuale, nel vostro lavoro, è difficile, molto difficile, più difficile di prima tenere duro? Allora, io penso che le imprese, e in particolare le imprese familiari, abbiano la logica di un medio-lungo periodo. Per fortuna non siamo, diciamo, sotto lo stress dei trimestri o dei quarter finanziari in cui si deve presentare risultati roboanti, per cui le aziende, le famiglie prendono delle decisioni con dei criteri differenti, e se uno crede nel proprio lavoro, crede nella propria azienda, crede nel proprio progetto imprenditoriale, in questi momenti che sono non nascondiamoci, sono duri, sono stati duri e penso che saranno non facili, comunque il messaggio che all'interno del perimetro aziendale e familiare si dà è quello di dire: noi crediamo in quello che stiamo facendo, lo vogliamo fare, lo faremo ancora e lo faremo ancora con più impegno, perché in questo momento il tutto diciamo così è più difficile. Da parte nostra, nel nostro caso, abbiamo, pur avendo un'azienda relativamente ben patrimonializzata, abbiamo scelto di dotarla di ulteriori mezzi finanziari per essere tranquilla di poter superare anche i momenti che intravedevamo non fossero facili. Dal punto di vista della sua azienda, quali sono in questo periodo le cose che stanno andando bene e quelle che stanno andando meno bene? Ovvero, dove avete raggiunto risultati e numeri positivi e quali sono i settori in cui siete invece più in difficoltà? Ma noi l'anno scorso siamo comunque cresciuti, noi chiudiamo un esercizio fiscale in maniera un po' particolare, per cui abbiamo chiuso da non moltissimo, noi siamo comunque cresciuti a doppia cifra. I successi, purtroppo, o comunque come si legge in quasi tutti i quotidiani, vengono dall'estero. Il mercato, diciamo, domestico italiano è più riflessivo, per cui è anche di nuovo lo specchio di una difficoltà che c'è, che è reale, che è presente, ma che con il quale però dobbiamo convivere. La nostra azienda è partita da un'azienda completamente indirizzata al mercato italiano, questo sto parlando di diversi anni fa, oggi noi esprimiamo più del 51% di attività all'estero, e questo da una parte ci ha aiutato a mantenere la barra dritta e soffrire, ma non soffrire completamente, per cui non dipendiamo soltanto da un mercato, ma siamo abbastanza diversificati in diversi parti del mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, al Medio Oriente, all'Estremo Oriente e anche ai paesi emergenti. E proprio a proposito di crescita e futuro, come vedete quest'anno e soprattutto come pensate che possa andare il prossimo, anche in relazione alle vendite sul mercato interno ed estero? Se devo essere sincero, diciamo, la navigazione è veramente una navigazione a vista. A me sembra che io non sono dotato della sfera di cristallo e invidio qualcuno che è in grado di fare proiezioni a 1 o 2 anni. Sinceramente noi viviamo il presente con difficoltà, speriamo di riuscire a mantenere e, se siamo fortunati, di crescere un po'. Se questo succederà sarà dovuto comunque ha un duro lavoro, perché dietro alle cose non c'è più un qualcosa di finto, ma c'è il duro lavoro, c'è svegliarsi prima, avere più idee, essere più collaborativi, trovare dell'innovazione, girare di più, presentare, diciamo, essere vicini alla propria clientela. Ci sono una serie di elementi che concorrono a quello di dare il senso dell'appartenenza e dall'altra parte dare il senso del significato dell'azienda alla tua clientela di riferimento, dicendo: anche se il momento è difficile, noi siamo vicino a voi, qua ci siamo, il momento è duro, cerchiamo di viverlo insieme e di costruire insieme un futuro migliore. Prendendo gli elementi positivi che possono venire da questa situazione, pensa che questo momento difficile porti a una maggiore attenzione di quegli aspetti dell'imprenditorialità concreta che sono misurabili e che fanno parte delle aziende, delle imprese, in particolare delle imprese familiari? Io assolutamente sì, trovo che i valori che contano davvero, il recupero del saper fare, della capacità, diciamo, dell'artigianato ma inteso in valore in senso alto, della capacità di trasformare delle idee in prodotti, in innovazione, in un qualcosa di reale, di concreto e non dei sogni e delle chimere, sia un elemento che poi alla fine l'umanità si va per cicli e controcicli. Oggi si sta tornando sulla terra, si devono appoggiare i piedi bene per terra, guardare e tenere la testa bella dritta, bella alta. Vorrei anche essere non solo, diciamo così, contento del fatto che si riparla dell'industria, che è un elemento portante della spina dorsale dell'Italia, di tante anche imprese, microimprese o piccole imprese che hanno fatto il successo di questo paese, ma anche mi piacerebbe avere un po' di orgoglio nazionale da portare in giro e sventolare la bandiera tricolore, come noi siamo di Torino, abbiamo potuto vedere durante questa manifestazione dei 150 anni. Più di 80 anni di storia alle spalle, il gruppo Tecnica è un'impresa familiare con sede a Giavera del Montello, nel Trevigiano, ed è leader mondiale nelle calzature, abbigliamento e attrezzatura per lo sport, la montagna e il tempo libero. Alberto Zanatta, direttore generale. Mentre gli altri parlano, gli imprenditori agiscono e devono agire, perché hanno questa cosa non solo nel DNA, ma perché devono farlo per mantenere in piedi e sviluppare la propria azienda. Assolutamente, sì. Quindi noi chiediamo, imprenditore per imprenditore, quali sono in questo momento le cose, le decisioni, i provvedimenti in particolare che mettete in atto nella vostra azienda per fronteggiare a un momento di così grave incertezza. Sono molti gli interventi, sicuramente per quanto ci riguarda l'aspetto della gestione del circolante, evidentemente questa crisi sta dando una ristrettezza di carattere finanziario, quindi il sistema bancario, sappiamo benissimo la situazione qual è, quindi non è che possiamo contare su forze straordinarie. Lo scopo quindi nostro nel caso specifico è quello di dire: cerchiamo di gestire al meglio il circolante, quindi le nostre risorse finanziarie, quindi vuol dire gestione con molta attenzione dei magazzini. Ecco, che cos'è che vi aiuta in particolare in questo momento? Qual è anche la ricetta che state cercando di applicare, che magari è una ricetta che avete già imparato? Sì, quella del Lean, quindi apportare questa filosofia all'interno dei processi aziendali. Quindi ce la può spiegare? Sì, nel senso, se l'applicazione della Lean, per esempio, nell'ambito produttivo, eliminare tutti i tempi morti, eliminare il fatto di avere della merce durante il processo produttivo che rimanga ferma, immobilizzata, e quindi mettere in sequenza tutta una serie di operazioni che fanno sì che le scorte che normalmente si trovano tra un reparto ed un altro vengano eliminate, quindi mettendo in sequenza i reparti evitiamo di avere giacenze, e quindi stiamo collaborando con i nostri fornitori affinché, una volta concordato un accordo quadro che prevede l'acquisto stagionale o annuale con il fornitore, le consegne vengono chiamate in funzione di quelli che sono i nostri lanci di produzione, quindi sequenzialmente l'arrivo della merce arriva due giorni prima anziché magari un mese prima come veniva magari in passato, perché andava bene così. Quindi l'attenzione a queste cose qui può portare dei benefici enormi. Siamo in piena stagione invernale e si sta intensificando magari la domanda, ma è veramente una domanda importante come gli anni scorsi oppure è una domanda che si sta contraendo? No, l'interesse per il mondo, diciamo, della neve, degli sport invernali è sempre molto alta. La fortuna vuole che o la bravura, la professionalità è che in qualche modo noi lavoriamo in maniera importante con il mercato estero, perché in Italia vendiamo il 10%, il 90% del nostro fatturato viene fatto all'estero ed evidentemente le stagioni invernali non sono proprio tutte uguali in tutti i paesi, fortunatamente, quindi negli Stati Uniti, in Canada la neve è già arrivata, il mercato è già partito in maniera importante. Quindi diciamo che c'è incertezza per quanto riguarda il mercato di quest'anno? Certo che sì, nel senso che mi spieghi e mi dica qual è il settore che non ha un po', che ha qualche certezza. Le incertezze ci sono credo in tutti i settori, quindi giustamente credo noi dobbiamo essere prudenti e quindi costruire i nostri budget, i nostri costi, i nostri investimenti in funzione di queste considerazioni. Se poi il mercato reagirà bene, siamo pronti per fare un salto in avanti. Quindi. Certo, qual è lo spirito in questi momenti? Di coraggio e di forza ulteriore, perché proprio in questi momenti che per esempio noi stiamo investendo tantissimo nell'ambito dell'innovazione, proprio perché in queste situazioni non potrà essere sempre tempesta, prima o dopo arriverà anche il sole, quindi per il momento in cui arriverà il sole noi dobbiamo essere pronti con prodotti innovativi, con ricerca, con brevetti e fare in modo che i fatturati possano riprendere in maniera importante anche dopo il momento di crisi. Quindi è anche la tradizione che vi aiuta un po' a rimanere forti e saldi? Assolutamente, il fatto di avere dei marchi forti come i nostri marchi che abbiamo all'interno del gruppo sono dei marchi storici, mondiali, leader di mercato, Nordica è lo scarpone per eccellenza, Blizzard è lo sci storico di Franz Klammer, Rollerblade è sinonimo di pattino in linea, per citare Dolomite che è tra i marchi più storici nell'ambito dell'outdoor, perché nasce nel 1892, quindi questa è un po' la forza nel DNA del nostro gruppo, dopo sta a noi a mantenere viva questa forza con prodotti, con innovazione, con nuove idee, con idee di marketing e tenere viva l'attenzione nei confronti dei consumatori. Per chiudere questa prima puntata speciale, vogliamo farvi riascoltare un brano tratto dalle conclusioni del convegno di quest'anno dell'AIDAF, l'Associazione delle Imprese Familiari. Una certezza è l'instabilità generale, una seconda certezza è l'assoluta debolezza della politica, una terza certezza è che le aziende familiari forse sono rimaste le uniche a pensare a lungo termine, a pensare a lunghissimo termine. Una quarta certezza è che la stabilità del capitalismo familiare è un valore fondamentale, è un valore ancora più significativo, più importante in un momento come quello di oggi, così critico e preoccupato. Un'altra certezza, l'Italia arranca, anzi arretra, è una situazione che però deve assolutamente essere cambiata. E quando l'azienda familiare cambia, quando cambia pelle, quando ringiovanisce, quando si cambia le regole ma mantiene in assoluto i valori tradizionali della famiglia, ma cambia le regole, quando dà spazio ai giovani, allora l'azienda cresce, innova, l'azienda familiare produce ricchezza. Le interviste sono di Alessandra Scaglioni e Anna Marino. L'appuntamento è per la prossima settimana per ascoltare altre testimonianze di imprenditori italiani. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.